Si rinnova l'appuntamento settimanale su Radio Sandona 102.2 con Overbooking, il programma che vi parla di libri e se ne discute anche questa sera con Ferdinando Morgana, che fa ormai parte integrante del nostro staff. Ciao Alvise, ciao a tutti, è un piacere come al solito, un piacere usuale direi. Saluto te, saluto anche Daniele dall'altra parte del vetro in regia. La parte, diciamo, la routine che si ripropone e ripropone in questo studio, ormai ci conosciamo anche in parti abbastanza intime, insomma, comunque avete capito. E, non confermo e non smentisco. Che è sempre sempre il meglio. Che è bellissima, è una formula bellissima, infatti l'hanno inventata gli americani. Allora, e infatti, e questo cade a fagiolo, grazie. Niente a caso. Questa sera parliamo proprio di un autore americano, uno tra i maggiori esponenti della letteratura americana attuale, per americana intendo anche statunitense. Secondo Harold Bloom, importantissimo critico letterario a livello mondiale, uno dei quattro autori americani viventi più importanti, quindi insomma... in odore di Nobel anche ad un certo punto. Sì, speriamo, prima o poi, insomma, se lo meriterebbe, visto gli ultimi Nobel abbastanza scandalosi che sono stati assegnati, insomma. Vogliamo dire di chi si tratta? Sì, dillo tu che io sono un po'... Sei emozionato? Sì. Si tratta di Cormac McCarthy. Sì, Cormac McCarthy, è ribalzato agli onori della cronaca. Beh, uno scrittore assolutamente prolifico, innanzitutto. In Italia... abbiamo quasi tutta la sua produzione è stata tradotta a più riprese da Einaudi, ma è balzato agli onori della cronaca e soprattutto è diventato più conosciuto e conoscibile al grande pubblico tramite due trasposizioni cinematografiche dei suoi lavori. Uno, il primo è stato Non è un paese per vecchi, tratto dall'omonimo romanzo, e a cui è seguito The Road, la strada in Italia, che appunto è anche questo un romanzo, questa volta ambientato in un futuro, in un prossimo futuro, sempre a firma di Cormac McCarthy. Questo... E a queste due trasposizioni cinematografiche si unisce una terza trasposizione, in questo caso televisiva della HBO, che è proprio riguarda il libro di cui parliamo questa sera, un testo teatrale, non un romanzo. Noi cerchiamo sempre di fare un po' i difficili. E come si intitola? Sunset Limited. Sì, Sunset Limited è uscito per Einaudi nel 2006, come diceva Ferdinando, è un testo teatrale e sostanzialmente è un dialogo che si svolge in una cucina tra un personaggio chiamato Bianco e un personaggio chiamato Nero. Ecco, direi essenziale, due definizioni essenziali. I due protagonisti sono effettivamente un uomo di colore e un bianco. Il personaggio bianco è un ex professore ateo che ha appena cercato di suicidarsi in metropolitana, mentre invece Nero è un ex galeotto, un cristiano evangelico, un personaggio legato alla fede, legato soprattutto alla Bibbia. La scena trae spunto dal fatto che Nero salva Bianco nel momento in cui questo sta per gettarsi sui binari del treno. A questo punto lo accompagna a casa sua e lo chiude nella sua cucina, nel senso che Bianco all'interno poi dell'opera cercherà più volte, chiederà a Nero più volte di poter uscire dalla stanza e tornare a quello che lui aveva intenzione di fare prima di incontrare Nero, ma Nero invece cerca di stabilire un dialogo e da qui appunto parte il lavoro di McCarthy. Sì, il lavoro di McCarthy è fondamentalmente una riflessione fra gli opposti, fra ovviamente un personaggio ateo e un personaggio profondamente religioso, fra un professore, quindi un esponente della high class, e un ex galeotto che invece rappresenta gli strati più profondi invece della società, tra un bianco e un nero ovviamente. Non c'è una differenza di età, almeno non viene esplicitata, comunque possiamo pensare che questa sia l'unica cosa che non li differenzia troppo. In tutti gli altri aspetti invece sono proprio due contrapposizioni, quindi è un testo che cerca di riflettere principalmente sulla religione, sulla visione del mondo dal punto di vista della fede, sul senso della vita dal punto di vista della fede, però che cerca anche di mostrare due spaccati completamente diversi della società e del mondo. Un dialogo effettivamente molto aperto su questa cosa. Esatto, e io comincerei a parlare diffusamente appunto di Sunset Limited di McCarthy con una lettura che anche questa sera viene curata dalla nostra Elisa, che riguarda l'incipit e quindi il diciamo il prologo e poi l'inizio del dialogo tra bianco e nero. La scena si svolge in una stanza di un caseggiato popolare in un quartiere nero di New York. C'è una cucina con dei fornelli e un grosso frigorifero, una porta che dà sul pianerottolo e un'altra che presumibilmente dà sulla camera da letto. La prima è dotata di una bizzarra serie di spranghe e chiavistelli. Nella stanza c'è un tavolo di formica da 4 soldi con 2 sedie di metallo e plastica. Il tavolo ha un cassetto. Sul tavolo ci sono una Bibbia e un giornale, un paio di occhiali, un taccuino e una matita. Su una delle 2 sedie, quella di destra, è seduto un nero corpulento. Sull'altra, un bianco di mezza età, con un paio di pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica. Ha indosso una t-shirt, mentre la giacca, che fa il paio con i pantaloni, è appesa dietro di lui, allo schienale della sedia. Inizia il dialogo il personaggio nero. «Allora, professore, cosa devo fare con te?» «Perché dovrebbe fare qualcosa?» «Te l'ho detto? Io non c'entro niente. Quando stamattina sono uscito di casa per andare al lavoro, tu mica c'eri nei miei programmi. E invece, eccoti qua.» «Non significa nulla. Niente di quello che succede significa qualcosa.» No, infatti. E allora cosa significa? Non significa nulla. Capita di incontrare delle persone e capita che qualcuna di queste sia nei guai per un motivo o per l'altro. Ma non significa che dobbiamo assumercene la responsabilità. E comunque, chi è sempre pronto a occuparsi dei perfetti sconosciuti molto spesso non si occupa delle persone di cui dovrebbe occuparsi. Per come la vedo io, se uno si limita a fare ciò che dovrebbe, non diventa un eroe. E io sarei un tipo così. Non lo so. È un tipo così? Beh, ci può anche essere un fondo di verità in quello che dici. Non dico di no. Ma in questo caso specifico, sta sicuro che io non sapevo proprio di che tipo di persona mi dovevo occupare o cosa fare quando la trovavo. In questo caso specifico mi sono basato su una cosa sola. E cioè? Cioè sul fatto che vedo un tizio lassù, in piedi. Lo guardo e posso dire pure, ma a prima vista non sembra un mio fratello, però sta lì. Forse è il caso che lo guardo meglio. E così ha fatto. Beh, era un po' difficile far finta di niente. Fammi dire che il tuo approccio è stato un bel po' diretto. Non è stato un approccio. Non l'avevo neanche vista. Adesso è meglio che me ne vada. Sto cominciando a darle sui nervi. No! Non è vero. Non farci caso a me. Sembri un apposto, professore. In realtà, quello che non capisco è come hai fatto a metterti in un casino del genere. Già. Ti senti bene? Hai dormito stanotte? No. Quando hai deciso che oggi era il gran giorno? Cos'è? Ha qualcosa di speciale? No. Beh, guardi, oggi è il mio compleanno. Ma che reputi la cosa speciale? Proprio no. Allora buon compleanno, professore. Grazie. Insomma, Hai visto che stava arrivando il tuo compleanno e hai pensato che era il giorno più adatto. Chi lo sa? Magari i compleanni sono pericolosi, come il Natale. Decorazioni sugli alberi, ghirlande sulle porte e cadaveri che penzolano dai soffitti di tutta l'America. Il che non depone molto a favore del Natale, giusto? Il Natale non è più quello di una volta. Su questo ti do senz'altro ragione, al 100%. Adesso devo andare. Sulle note di John Coltrane, Say It Over and Over Again, torniamo in onda sui 102.2 di Radio San Donà con il consueto appuntamento con i libri su Radio Sandonà e quindi con Overbooking. In studio Alvise, in regia Lele e l'ospite d'eccezione della giornata è come sempre Ferdinando, che ci sta guidando alla lettura di Sunset Limited, uno delle opere più famose di Cormac McCarthy, uscito per Einaudi nel 2006. Sì, allora, una cosa che mi piaceva aggiungere, ne parlavamo un po' prima ascoltando la musica, su Cormac McCarthy e i film. Abbiamo parlato di The Road, abbiamo parlato di Non è un paese per vecchi, dei Coen, abbiamo parlato anche di Sunset Limited, che è uscito nel 2011 in America come riduzione televisiva per la HBO con Samuel L. Jackson e Tommy Lee Jones, tra l'altro che ha firmato anche la regia di questa riduzione. E ci sono altri due film previsti in uscita tratti da romanzi di Cormac McCarthy. Nel 2012 in America dovrebbe uscire Città della pianura, sì, che fa parte, che come romanzo fa parte della trilogia della frontiera di cui si è occupato McCartney, e praticamente è un romanzo in cui si affronta il tema di un mondo western decadente, in qualche modo si è ambientato negli anni 50 nel Nuovo Messico, quindi la parte degli Stati Uniti che confina proprio con il Messico, e narra la storia di alcuni rancheros e quindi di questi cowboy d'antan, in qualche modo, in un mondo che ormai di cowboy ha poco. Tra l'altro New Mexico, lui vive in New Mexico. Esatto. Oltre a averci ambientato la maggior parte dei suoi romanzi, ci vive, è anche, insomma, una persona che ha deciso di vivere nel posto che ha deciso di raccontare, quindi è un diciamo sempre contestuale. Sì, poi tra l'altro una cosa che colpisce di McCartney è che è assolutamente eclettico, ossia riesce a parlare in maniera altrettanto competente di, futuro e quindi reazioni a un disastro come nel caso di The Road, ma anche di sellatura dei cavalli come in qualsiasi libro che fa parte della trilogia della frontiera. È un autore veramente che se non ha già avuto il Nobel poco ci manca. Ed è veramente, come diciamo prima, uno dei quattro più importanti viventi oggi in America, e quindi speriamo di poter vedere sia Città della pianura che anche Meridiano di sangue, era previsto in America per il 2011, chissà se lo vedremo, ma insomma se lo andremo a vedere ve ne faremo avere notizia. E tra l'altro, dicevamo, scrittore molto eclettico, non so se sai che Cormac McCarthy ha anche un suo Twitter. Ma pensa, no, io non collego mai queste persone con la tecnologia, invece sbaglio. Ma guarda, invece sbagli, perché uno come lui, così, insomma, un uomo veramente di una volta, uno che veramente probabilmente sella ancora i cavalli, che vive nel New Mexico in una cittadina molto piccola, polverosa, uno che è stato accomunato a Salinger e a Pynchon perché non rilascia interviste, non si fa vedere in pubblico, insomma uno che non esiste, e poi c'ha Twitter e scrive su Twitter come scriverebbe in Sunset Limited, in Città della pianura, quindi con quella propensione alla descrizione molto minuziosa, però anche molto lirica, e quindi sono dei tweet che si seguono amabilmente. Qual è stato poi, proprio tra l'altro alcune settimane fa, lo sgomento di tutti nel scoprire che non era il suo tweet? Quindi adesso vedete, ho imbastito tutto questo discorso, ma poi si è scoperto poco fa, cioè alcune settimane fa, con un comunicato stampa ufficiale, che è stato ben imitato, e vorremmo sapere a questo punto da chi, perché veramente... Chi è il fenomeno a questo punto? Sì, perché scrivere come McCarthy senza farsi scoprire per un sacco di mesi, veramente ci vuole del gran talento. E quindi insomma, ma io continuerò a seguirlo lo stesso facendo finta di non sapere che non è lui. Voglio guardarlo come un quadro, come un falso d'autore appeso in soggiorno e fare finta così che sia lui. E puoi anche autoconvincerti che sia lui e, no. E probabilmente è lui e solo non sì. Lo è troppo timido per dirlo. Può essere così, magari gli scriviamo, twittiamo qualcosa da Radio Sandonà a lui. Tra l'altro uno dei temi che si ritrova spesso nella letteratura di McCarthy e che troviamo anche in questo Sunset Limited è il rapporto con la religione e Dio e in qualche modo l'origine della vita. Citavamo prima la città della pianura, questi rancheros passano buona parte delle loro serate attorno ad un fuoco dopo aver passato la giornata, diciamo, a portare delle gregge di bestiame al pascolo e affrontano temi quali, ad esempio, visti ovviamente da un rancheros, quali, dicevo, l'origine della vita, l'origine delle cose, temi più alti. Esatto, l'origine, il perché la natura si comporta in un certo modo con gli uomini. E qui sì, guarda, e poi è uno effettivamente dei temi fondamentali di Sunset Limited e non è casuale che ci sia la Bibbia a dividere non solo metaforicamente come argomento teorico ma anche come oggetto fisico sul tavolo, divide le loro posizioni. E la Bibbia è spesso nella letteratura, nella cultura in realtà poi di tutti i giorni americana, molto presente. Ed è interessante notare come sia anche nel libro, mentre nella cultura europea sono i Vangeli che sono alla base della formazione cristiano-cattolica, invece nella formazione americana, nordamericana, è la Bibbia, è l'Antico Testamento e quindi anche in questo caso effettivamente l'oggetto di discussione è questo. Quindi è sempre interessante notare come ci sia questa differenza di fondo sempre tra cultura europea e cultura nordamericana. Tra l'altro poi questo dibattito che ruota intorno alla Bibbia come, diciamo, punto di riferimento per la per Nero per concepire la propria vita, invece Bibbia che non viene assolutamente considerata da bianco, è un motivo di scontro, ma ad un certo punto anche di incontro tra i due, nel senso che il dialogo con l'andar del libro prende diverse strade, si dirama più e più volte e le due persone inizialmente abbastanza lontane, lo rimangono nel corso del libro, trovano alcuni punti di contatto. Una cosa che mi colpisce è ad esempio il fatto che la concezione di bianco che lo spinge a, diciamo, pensare al suicidio come un gesto che in qualche modo è un gesto di amministrazione straordinaria della propria vita è visto da Nero come un gesto sostanzialmente antidemocratico, nel senso che è un qualcosa che va a ferire l'interesse degli altri. Quindi e questo Nero lo mutua dalla lettura della Bibbia. Quindi ci sono dei temi anche interessanti perché non è solo, diciamo, la religiosità in quanto tale, ma anche l'interpretazione che ognuno di noi dà al credere o al non credere. Sì, assolutamente, questo mi ricorda, voglio dire, può essere uno spunto per ricordarci poi il romanzo filosofico Voltaire, eccetera, quindi come dire, la scrittura teatrale di McCarthy in questo caso è ovviamente una riflessione sui grandi temi della vita, come fa lui sempre nei suoi romanzi, perché in Un ragazzo che addestra una lupa selvatica poi è lo spunto per parlare della vita e della morte, in un appunto Il guardiano del frutteto piuttosto che La strada, in tutti i suoi libri si passa sempre dal particolare ai grandissimi temi. L'idea di partire già dai grandissimi temi ci richiama un po' l'ambizione sempre alta che hanno avuto i grandi scrittori. Allora andiamo a leggere un secondo estratto sempre da Sunset Limited, quindi sempre dalla voce di Elisa. Bianco si alza e prende la giacca dallo schienale della sedia, se la mette sopra le spalle e poi ficca tutte e due le braccia nelle maniche, invece che infilarsela una manica per volta. «Ti infili sempre le giacche in quel modo?» «Cos'ha che non va il modo in cui mi infilo la giacca?» «Non ho detto che ha qualcosa che non va. Volevo solo sapere se è il metodo che usi sempre. Non è che abbia un metodo. Me la infilo e basta.» «Che c'è? È da effeminati?» «Che? Niente. Me ne sto solo qua, seduto a studiare il comportamento dei professori.» «Sì, beh, adesso devo andare.» Il nero si alza. «Ok, aspetta che prendo la giacca.» «La giacca? Sì? Dove va?» «Vengo con te.» «In che senso?» «Viene con me dove?» «Vengo con te, nel posto dove stai andando.» «No, no che non viene.» «Sì, invece, me ne sto tornando a casa.» «Benissimo, benissimo. Guardi che lei non ci viene a casa mia.» «E come se ci vengo?» «Aspetta che prendo la giacca.» «Ma non può venire a casa mia.» «Perché no? Perché no?» «Come sarebbe? Tu puoi venire a casa mia e io non posso venire a casa tua?» «No, cioè, no, non è questo. È solo che voglio tornarmene a casa.» «Abiti in un palazzo col portiere?» «Sì. E allora? I neri non possono entrare?» «No, cioè, certo che possono entrare. Senta, basta con questi giochetti. Devo andare. Sono molto stanco.» «Beh, spero che non ci piantino grane quando vedono che salgo con te.» «Dice sul serio?» «E dai che l'hai capito. Sì che dico sul serio.» «Non può dire sul serio. Serio come un attacco di cuore.» «Perché sta facendo tutto questo?» «Io? Io non ho nessuna scelta.» «Certo che ce l'ha. No, invece.» «Chi l'ha nominata mio angelo custode?» «Aspetta che prendo la giacca. Risponda alla domanda. Tu lo sai chi è stato?» «Non te l'ho mica chiesto io di saltarmi in braccio stamattina mentre aspettavo la metro.» «Non le sono saltato in braccio.» «Ah no? No? E allora come ha fatto ad arrivarci?» Il professore resta in piedi a testa china, guarda la sedia, poi si volta e ci va a sedere di nuovo. «Beh, non usciamo più?» «Lei pensa davvero che in questa stanza ci sia Gesù?» «No, non lo penso.» «Ah no? Lo so che c'è Gesù in questa stanza.» Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was. We'll be right back. 102.2 Radio San Donà, Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, canzone diventata famosa in quanto colonna sonora, tra le altre cose, di Pulp Fiction del beneamato Quentin Tarantino. Fra l'altro, chi recita in Pulp Fiction? E chi ci recita, caro Alvise, vuoi dircelo tu? Chi è il personaggio di colore? Il personaggio di colore di Pulp Fiction, ma anche di Sunset Limited, è Samuel L. Jackson. Vedi, niente a caso a Radio San Donà. Ma ormai questi collegamenti che si sprecano, tra l'altro, come ricordava giustamente Lele durante il fuori onda, durante questa canzone in Pulp Fiction, John Travolta fa una delle cose che lo ha reso famoso al mondo, ossia mangiare hamburger. E a questo punto noi vi ricordiamo che potete ascoltare questa puntata, come tutte le nostre altre, su www.bloverbooking.wordpress.com. Potete anche intervenire in trasmissione chiamandolo 0421 560993, o mandando una mail a radio@radiosandona.it. Vi ricordo di nuovo www.bloverbooking.wordpress.com e anche il sito di Radio San Donà www.radiosandona.it. Perché? Perché a parte la nostra programmazione, quindi relativa ad Overbooking, potrete trovare informazioni relative a quella che è la programmazione della radio. Ci sono una serie di altri programmi interessantissimi che vanno in onda nel corso della settimana, ma anche quelle che sono le iniziative culturali e letterarie che gravitano intorno alla città di San Donà e limitrofi. In particolare vi segnaliamo un ciclo di incontri che ci riguarda direttamente, che riguarda il nostro Ferdinando che è qui con me direttamente, che si terranno presso la biblioteca civica di Jesolo dal 3 marzo al 7 aprile. Sì, guarda, grazie mille per darmi la possibilità di parlare di questo corso, che è una cosa alla quale tengo molto. Il Comune di Jesolo molto gentilmente mi dà la possibilità, la biblioteca soprattutto, di fare questo corso di scrittura e narrazione per aspiranti scrittori e narratori. È un corso che terrò io tutti i sabati dal 3 marzo al 7 aprile. Sono 5 incontri, quasi tutta la giornata del sabato, o meglio la mattina e parte del pomeriggio, viene impegnata in un'attività di laboratorio in classe. E sono 5 lezioni in cui cercherò di dare le informazioni, le tecniche di base della narrazione, e soprattutto si farà attività laboratoriale, quindi si scriverà, si leggeranno, si cercherà di capire quali sono i movimenti della scrittura, si guarderanno i grandi maestri e si cercherà di fare qualcosa sulla scia di quello che leggeremo. Tra l'altro si tratta di una iniziativa che è quantomeno, diciamo, avanguardistica, vorrei dire, per la nostra regione, nel senso che io ne ho sentito molto, ho sentito parlare di corsi simili di scrittura e narrazione in grosse città come ad esempio Bologna, piuttosto che Torino, piuttosto che Trieste, ma ancora non mi era mai giunta voce, correggetemi se sbaglio, mi era mai giunta voce di un corso di narrazione fatto qui in zona. Quindi vi invitiamo calorosamente a prendere parte a questo corso che, vi ricordo, avrà luogo presso la Biblioteca Civica di Jesolo in Piazzetta Jesolo 1 il 3, 10, 24 e 31 marzo e poi il 7 aprile. Come diceva Ferdinando, si tratta di in tutti e 5 i casi dei sabati. Gli orari sono dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16, e potete trovare tutte le informazioni contattando direttamente Ferdinando su Ferdinando Morgana, scritto tutto attaccato e senza punti né separazioni, @libero.it, lo ripeto, Ferdinando Morgana @libero.it, e poi altrimenti chiamando il numero di telefono della Biblioteca Civica di Jesolo, 0421 359144, 0421 359144. Nel caso foste più affezionati a noi di Radio San Donà, ancora una volta riusciremo a darvi tutte le informazioni che riguardano il corso di scrittura e narrazione che Ferdinando terrà presso il comune di Jesolo, contattandoci allo 0421 560993 oppure a radio@radiosandona.it. Dopo questo, lo spazio dedicato alle iniziative locali, continuiamo di nuovo torniamo a parlare al nostro Sunset Limited. Sì. E, guarda, stavo un po' parlando prima fuori onda, chiacchierando amabilmente, ascoltando la musica come ci compete, insomma, è sempre bello continuare a chiacchierare anche quando possiamo. Il fatto di dei protagonisti di questo di questa opera di McCarthy, il fatto che non possano uscire dalla stanza, ci ricorda da un lato, almeno a me fa pensare da un lato, a come sia impossibile evadere da certi problemi, il fatto che a queste domande non vi è risposta, è un po' come una stanza dalla quale non si può uscire. E quindi effettivamente loro non riescono mai a uscire dalla stanza, così come non riescono a uscire dalle questioni che vengono sollevate. E d'altro canto ci fa pensare a tutte quelle situazioni drammaturgiche simili, per esempio Carnage di Polanski, oppure Buñuel, Discreto fascino della borghesia. Ecco, abbiamo avuto un sottile momento di imbarazzo, ma alla fine mi è venuto in mente. E sono tutte narrazioni nelle quali di fronte a un problema inestricabile non si riesce a sfondare il muro, non si riesce a uscire dalla stanza, si prova a uscire dalla stanza ma non ci si trova mai nelle condizioni di poterlo fare. Tra l'altro è anche la scelta di ambientare questa cosa in un ambiente, scusate il gioco di parole, chiuso e immutabile per tutto il corso del libro, secondo me è una scelta interessante, nel senso che lascia spazio alla pluridimensionalità delle idee della persona, ossia lascia spazio a quello che è, la persona può dire sulla vita e sull'oggetto del discutere, che la persona stessa si è creata con il suo vissuto personale, ossia non c'è un ambiente che mi permetta di allacciarmi a qualcosa che vedo succedere o a qualcosa che vedo accadere in quel momento, che mi dà diciamo il là per ulteriori ragionamenti. Tutto quello di cui ragionano Bianco e Nero è qualcosa di già ampiamente sedimentato nelle loro coscienze. Sì, ma poi anche il fatto che sia tutto ambientato in una cucina ci fa pensare come l'ambiente domestico, quindi familiare, quindi conosciuto, di fronte a domande la cui risposta è inconoscibile, diventa perturbante. E perturbante è proprio questo alla fine, quando un elemento del quotidiano diventa irrazionale, quando c'è qualcosa che tu pensavi di conoscere e diventa lo vedi dall'altra parte, no? Come diceva Antonio Albanese in un vecchio film, com'è il rosso visto da dietro, insomma, quelle cose là. Io purtroppo devo iniziare a ringraziare Ferdinando per essere stato con noi anche questa sera. Grazie a te, grazie a tutti. E iniziare il valzer degli addii anche per questa settimana. Quindi partiamo con ringraziare Elisa prima di tutto per aver letto per noi anche questa sera. Lele in regia. Di niente. Matteo, che come sempre si occupa della parte tecnica di overbooking e della gestione del sito, e senza di lui non andremo da nessuna parte, neanche a casa. Un ringraziamento di nuovo caloroso a Ferdinando. Io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, sempre in compagnia di un nuovo libro e di overbooking. I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake distinct among snowflakes, unique in each way you'd conceive. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't know what that will be. I'll get back to you someday, soon you will see. What's my name? What's my station? Oh, just tell me what I should do. I don't need to be kind to the armies of night that will do such injustice to you. Or bow down and be grateful and say, sure, take all that you see. To the men who move only in dimly lit halls and determine my future for me. And what good is it to sing helplessness blues? Why should I wait for